Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Padova, a cura di Andrea Canton. Quando il mondo conosciuto era molto più piccolo, quando interi continenti e popoli vivevano lontani l'uno dall'altro, fare l'esploratore era un mestiere di tutto rispetto, pieno di fascino, pieno di romanticismo. Ricordiamo Alessandro Magno, Cristoforo Colombo, James Cook, tutti grandi uomini che in un modo o nell'altro hanno rappresentato la civiltà occidentale nel suo primo incontro con popoli prima d'allora sconosciuti. Mettendo per la prima volta il loro piede in continenti del tutto nuovi, questi precursori di Neil Armstrong hanno trovato divinità e credenze religiose diverse dalle proprie. Hanno ascoltato in questi nuovi paesi lingue indecifrabili, sono rimasti colpiti da abitudini alimentari per loro a dir poco nauseanti, si sono trovati di fronte a vestiti, cappelli, maschere mai viste prima d'ora, che li hanno atterriti o forse imbarazzati. Eppure, questi grandi esploratori, al di là di tutte le differenze all'interno di questi popoli, hanno sempre trovato un elemento comune a tutte le nuove civiltà. A fronte di qualche piccola differenza, questo elemento, dalle valli indiane, dalle isole caraibiche fino ad arrivare alle lande australiane, rimaneva in sostanza il medesimo, la famiglia. Famiglia, nucleo centrale e naturale di ogni società a noi conosciuta. A Milano, poche settimane fa, l'hanno festeggiata più di 1 milione di persone, in occasione del 7° incontro mondiale delle famiglie. C'erano sacerdoti, c'erano giornalisti, c'erano operatori di pastorale, ma soprattutto c'erano tantissime famiglie provenienti da ogni angolo del mondo. Persone sorridenti, fiere delle bandiere dei propri paesi d'origine, indossate come un mantello. Scene che pensavamo fossero confinate alle GMG, e invece no. E proprio come alle GMG il protagonista era sempre lui, Papa Benedetto XVI. Il pontefice, nella sua omelia conclusiva all'aeroporto di Bresso, ha ricordato la realtà meravigliosa della vocazione all'amore che si sviluppa nella famiglia, una forza capace di trasformare il cosmo. Ma nelle sue parole anche economia, lavoro, speranza, per chiudere una 5 giorni che aveva come tema la famiglia, il lavoro e la festa, valori immensi da applicare dunque nella quotidianità. Ne parleremo tra pochissimo con Carla Galtarossa dell'Ufficio Famiglia della Diocesi di Padova, ma prima leggiamo un brano del compendio riguardante proprio la famiglia. Dal compendio della dottrina sociale della Chiesa. La famiglia si propone come spazio di quella comunione tanto necessaria in una società sempre più individualistica, nel quale far crescere un'autentica comunità di persone grazie all'incessante dinamismo dell'amore, che è la dimensione fondamentale dell'esperienza umana e che trova proprio nella famiglia un luogo privilegiato per manifestarsi. L'amore fa sì che l'uomo si realizzi attraverso il dono sincero di sé. Amare significa dare e ricevere quanto non si può né comperare né vendere, ma solo liberamente e reciprocamente elargire. Grazie all'amore, realtà essenziale per definire il matrimonio e la famiglia, ogni persona, uomo e donna, è riconosciuta, accolta e rispettata nella sua dignità. Dall'amore nascono rapporti vissuti all'insegna della gratuità, la quale, rispettando e favorendo in tutti e in ciascuno la dignità personale come unico titolo di valore, diventa accoglienza cordiale, incontro e dialogo, disponibilità disinteressata, servizio generoso, solidarietà profonda. L'esistenza di famiglie che vivono in tale spirito mette a nudo le carenze e le contraddizioni di una società orientata prevalentemente, se non esclusivamente, da criteri di efficienza e funzionalità. La famiglia, che vive costruendo ogni giorno una rete di rapporti interpersonali, interni ed esterni, si pone invece come prima e insostituibile scuola di socialità, esempio e stimolo per i più ampi rapporti comunitari all'insegna del rispetto, della giustizia, del dialogo, dell'amore. Siamo con Carla Galtarossa dell'Ufficio Famiglia della Diocesi di Padova. Grazie per essere con noi. Prego, grazie a voi. Allora, le è piaciuto l'incontro internazionale? Ma guardi, è stato una cosa molto bella, se posso dire la cosa più caratteristica che a me ha colpito, ma do anche la risonanza di quello che hanno riportato, insomma, gli altri amici, le altre famiglie che sono venute in pullman con noi. È stato bello perché ci siamo conosciuti fra noi, abbiamo conosciuto tante persone e c'è proprio questo desiderio, questa voglia, ecco, di ripetere questo tipo di incontri, di appuntamenti. Cosa è emerso in breve? Cioè, qual è stato il messaggio più importante che vi siete portati a casa? Guardi, forse l'idea, l'incontro non è stato trionfalistico, non è stato rivendicativo, no? Ecco, noi ci siamo, noi vogliamo essere riconosciuti, ma proprio questo desiderio di essere insieme. Se posso dire, io ho percepito anche questo desiderio di essere vicini al Papa, insieme al Papa, quasi un affidamento reciproco, no, in questo tempo che non è facile né per lui né per la famiglia. Credo che questo sia l'aspetto anche più mediatico, più insomma immediato. Probabilmente quello che è emerso realmente, e che dico è emerso al di fuori dei due giorni, del sabato e della domenica, cioè dell'evento celebrativo così mediatico, sono state le riflessioni teologiche, le riflessioni pastorali, che avranno delle ricadute da ora in poi, ecco, quando saranno proprio elaborate ulteriormente e diventeranno prassi, insomma, ecco, anche prassi pastorale, e poi avranno anche degli input per il sociale. Ecco, credo che quello che è emerso verrà fuori da adesso in avanti. Ecco, insomma, Riflessioni anche abbastanza sui temi sociali, sui temi, diciamo, pratici. Il tema era famiglia, lavoro e festa. In che modo, secondo lei, gli aspetti economici possono influenzare in positivo o in negativo la stabilità e la natura stessa della famiglia che conosciamo? Guardi, è stata un'intuizione straordinaria, ecco, questa del tema, credo, no? E sono valori che noi sentiamo fortemente uniti, ecco, non disgiunti fra di loro, proprio uno che sostiene, che permea, no? Indispensabile per l'altro. Per noi credenti è facile, no? Rifarsi alle prime pagine della Bibbia, lavoro, riposo, relazione e corresponsabilità, insomma erano davvero un tutt'uno, però anche dal punto di vista, come diceva lei, laico, sociale, insomma, è in questa radice antropologica che risale la natura, si fonda la natura stessa della famiglia, quindi è evidente che gli aspetti economici influenzano la stabilità o no, ecco, lo tocchiamo con mano, è un tema urgentissimo oggi in questo contesto, insomma, la famiglia, il lavoro e la festa. E non è un caso, secondo me, che questi nervi scoperti sono tutti e tre scoperti, vediamo anche il discorso della festa, delle domeniche lavorative, della precarietà del lavoro, eccetera. Cioè, se c'è la relazione e manca il lavoro è precario, non c'è la possibilità di accedere al mutuo, manca la serenità economica, non c'è neanche la possibilità di far festa e quindi di rigenerarsi nella relazione, proprio, come dire, un circolo vizioso o virtuoso, ecco, che può essere questo. Insomma. Proprio di famiglia, lavoro, economia e sostegno della società ne parleremo tra pochissimo, ma ci fermiamo qualche istante. Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Padova. Bentornati carissimi ascoltatori al Bene di Tutti Parliamone, in una puntata dedicata alla famiglia, in particolare al Festival Internazionale delle Famiglie. Siamo in collegamento con Carla Galtarossa dell'Ufficio Famiglia della Diocesi di Padova. Grazie per essere con noi. Prego. Si parla di famiglia, si parla di politiche familiari. In Italia si è riusciti a fare una politica familiare o no? E se no, per quali motivi? Guardi, io non sono un'esperta come potrebbero essere altri, però molto semplicemente dico che in Italia tocchiamo con mano i danni di una politica, di una casta politica, economica, finanziaria, il nostro presidente lo diceva l'altro giorno, questi poteri forti, che si è via via costituita, no? E si è costituita come un sistema chiuso, che per conservarsi deve autorigenerarsi al suo interno, insomma tutto concentrato nei propri interessi. Però devo dire che d'altro canto, un po' per indole, per cultura, per tradizione, la famiglia italiana ha supplito all'inefficienza dello Stato, no? Fungendo da ammortizzatore sociale. Allora non si è costituita nel tempo, e ripeto, oggi si vedono i danni gravissimi, questa alleanza fra famiglia e società, questa sinergia fra le parti sociali, anche le parrocchie, come dire, hanno supplito in molto a queste mancanze dello Stato. Allora è tornato utile privatizzare la famiglia, confidarla dentro le mura di casa, slegare gli individui fra loro, individui più soli, più indaffarati, perché ripeto, devono supplire a tutto, e quindi più fragili, più manipolabili. Da qualche anno abbiamo iniziato a sentire in politica il ritorno, l'arrivo del Ministero per la Famiglia. Sì. Ma quali sono le politiche familiari che andrebbero fatte subito proprio per aiutare la famiglia a svolgere il suo ruolo ancora di più, il suo ruolo non solo di ammortizzatore sociale ma anche di bene propulsivo per la società? Guardi, io vado subito al concreto perché altrimenti si potrebbero aprire 100.000 finestre. È necessario, indispensabile, proprio per quello che dicevo prima, per il ruolo insostituibile che la famiglia ha avuto nella società e ha, insomma, è indispensabile che la famiglia sia riconosciuta nel suo compito sociale. Lasciamo perdere la trasmissione della vita, l'educazione. Ha un compito sociale, anche un compito economico. Di fatto la garanzia è la famiglia è artefice, è garante del futuro. Allora, concretamente, il primo passo è quello di una vera politica fiscale per alleggerire la pressione delle tasse, riconoscendo che la famiglia ha un ruolo economico e quindi questo ruolo economico di produzione di ricchezza va riconosciuto, e anche, se mi permette, di un welfare che alleggerisca il carico dei compiti di cura dei figli. Non parliamo di quanto costano i figli ad una famiglia, ecco, ma di quanto ci vuole per farli crescere, la cura degli anziani, la cura dei disabili. Tutto è davvero sulle spalle della famiglia, che peraltro, voglio dire, se uno si tiene un anziano in casa, eccetera, è un ritorno economico per lo Stato notevole, quindi almeno che questo venga riconosciuto. Anche dal confronto con altri paesi vediamo quanto, certo, la famiglia in Italia sia un bene prezioso. Qual è il valore aggiunto, oltre a questi che ha raccontato prima, della famiglia in Italia rispetto agli altri paesi, e quale di questi potrebbe essere ancora più aiutato per aiutare l'Italia ad uscire dalla crisi? Sì, guardi, ecco, appunto, lasciamo stare tutto l'aspetto economico di produzione di ricchezza. La famiglia è un bene per la società, prima di tutto per la sua concretezza e quotidianità nell'insegnare le regole di convivenza, quelle regole che poi ci servono per vivere all'interno della società, e rispetto per gli altri, l'accettazione del diverso, che in famiglia sia diversi anche dopo 30 anni che ci si conosce, ci abitua, ci allena ad accettare la diversità dell'altro, dell'immigrato, eccetera. C'è un aiuto reciproco, gratuito, che forma una cultura del bene comune a cui io devo contribuire, non posso aspettarmi semplicemente di ricevere. Quindi questo, ecco, ti allena, ti abitua, è un valore anche etico notevole, a sentirsi popolo, a sentirsi corpo. Ecco, quindi laddove si intrecciano questi valori, queste relazioni, al di là di un discorso di fede, capisce, io parlo proprio molto laicamente, c'è questo valore aggiunto che la famiglia è come risorsa, ecco, e quasi, no, come motore, ecco, sociale. Secondo il nostro punto di vista, oggi, in questo proprio momento storico, il valore aggiunto che la famiglia può immettere nella società è rivitalizzare, qua ci vuole uno sforzo anche da parte di noi famiglie, un tessuto relazionale che è sbiadito, cioè ha delle maglie troppo larghe, e i fatti che succedono, insomma, anche purtroppo di suicidi, eccetera, magari lo rivelano. Ecco, un tessuto fra famiglie e fra famiglie e istituzioni civili. Questo è il vero valore aggiunto. Abbiamo a Milano non solo famiglia-lavoro, ma anche famiglia-lavoro e la festa. La festa come momento privilegiato per la famiglia per ritrovarsi dopo magari il lavoro, dopo le attività produttive che vengono svolte nella settimana. Prima ha parlato di aperture domenicali, ha parlato di spazi al di fuori della famiglia che tendono a mangiare, a fagocitare questo spazio che dovrebbe essere lo spazio in cui la famiglia si ritrova e sta assieme. Da Milano qual è lo spirito, cosa è emerso a riguardo di questo punto? Beh, guardi, da Milano è emerso che senza questi momenti rigenerativi la famiglia non può andare avanti. Cioè, non è una questione di rispetto della domenica, del precetto festivo, è proprio un discorso di bisogno assoluto che la famiglia ha di trovare uno spazio per il dialogo, per la relazione, per lo svago, per la vacanza, insomma, per il gustare le cose belle che, insomma, quotidianamente, presi, insomma, dalle 100.000 incombenze, non si ha il tempo, non si ha la possibilità di fare. Sì, c'è un problema, al di là di tutti i discorsi che abbiamo fatti, anche economici chiaramente, quindi se la famiglia non viene sostenuta dal punto di vista per esempio di un modello fiscale adeguato, oppure anche dalle aperture domenicali che limitano gli spazi interni alla famiglia, perché comunque magari nessuno ci si può ritrovare sempre tutti assieme, ma c'è un problema culturale nel modello della famiglia come lo conosciamo. Certo. E il modello della famiglia che la dottrina sociale della Chiesa e il magistero della Chiesa propongono è un modello controcorrente? Guardi, chi adesso le parlo come rappresentante dell'ufficio diocesano, chi prepara le coppie al matrimonio riscontra che c'è anche oggi un grande desiderio di far famiglia, ma non possiamo ignorare che il modello, l'idea di famiglia a cui ci si ispira non è sempre la stessa. E come dire, in questi anni è venuto come un terremoto, purtroppo lo capiamo molto bene, no? in questi giorni, no? per secoli tutto tranquillo, poi uno sconvolgimento a partire proprio dal nucleo fondamentale che è il rapporto uomo-donna, la donna che studia, che lavora e dunque l'educazione dei figli, i compiti domestici per forza condivisi sono stati delle provocazioni e dei cambi molto grossi. E allora è evidente come tutto questo che ha portato a far sì che le basi sociali e familiari si fondino, non lo so, sulla velocità, sull'individualismo, sulla provvisorietà, sulla frammentarietà, eccetera, eccetera, vanno controcorrente rispetto a quell'intrecciarsi paziente, continuo, rispettoso, gratuito delle relazioni familiari che sostengono il modello della famiglia proposto dalla dottrina sociale della Chiesa. Allora, io non guardo fuori, come dire, non punto il dito contro un sistema, eccetera, eccetera, guardo dentro la nostra coppia, guardo dentro i nostri gruppi famiglie, le nostre comunità e riprendo un po', insomma, delle testimonianze iniziali, è bello che stiamo qui, è bello che siamo insieme, cioè c'è bisogno oggi che questo modello culturale parta dal basso come testimonianza vera, concreta. Cioè è necessario che le famiglie che vivono la bellezza della comunione sponsale, così come presentata, insomma, ecco, dai documenti e dalla dottrina sociale, eccetera, escano da quel concetto di falsa libertà, no? Che vi fa tenere in una posizione neutrale, sì, sì. E gli altri sono liberi di fare quello che vogliono, ormai i modelli familiari sono questi, insomma sono troppo grandi gli ingranaggi per noi, no, non è così, noi lo tocchiamo con mano e quindi c'è proprio la necessità di una proposta del bene che è la famiglia, del bene che è il matrimonio, così molto semplice, molto ordinaria, ma anche convinta. Volevo farle un'ultima domanda proprio su come trasmettere questo modello alle nuove generazioni, ma mi ha già dato la risposta, che è l'esempio e la testimonianza del bene che c'è dietro tutto questo. Se anche i modelli possono cambiare, chiaramente la donna 100 anni fa non lavorava, adesso lavora, però il nucleo fondamentale della famiglia, che come ci ricorda la dottrina sociale della Chiesa, è l'amore, quello continua. Grazie per essere stata con noi. Niente, grazie a voi. Ringraziamo l'associazione San Gaetano Don Piero Zaramella per il sostegno e il contributo dato alla realizzazione di questa e delle altre nostre trasmissioni.